1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7:17 minuti. Forza, forza, schema Allegri inserito. Vabbè, insomma. Sì, insomma, schema ex Allegri inserito. Dai, dai, dai, cari italiani, sono le 7:17 minuti, dovete andare a produrre, dovete andare a lavorare, portare i bambini a scuola e fare tutte le vostre consegne. Dai, dai. E allora, oggi parleremo della vicenda, la vicenda politica legata al ministro De Girolamo, che ricordiamo non è indagata, ma raccontano sui giornali, sta creando il rischio di un terremoto politico. Avremo ospite Marco Lillo del Fatto Quotidiano, avremo ospite il senatore Formigoni del Nuovo Centrodestra, dunque il partito della De Girolamo, avremo ospite l'onorevole Gozzi del Partito Democratico. Qui sapete c'è anche un intreccio familiare, perché De Girolamo è sposata con l'onorevole Boccia del Partito Democratico, allora tutti gli occhi sono puntati anche su cosa farà il partito del segretario Lorenzi. Insomma, questo sta creando dei problemi a livello politico e di tenuta. Ne parleremo alle 8:15, ora andiamo a scoprire cosa ci offrono i quotidiani. In questo martedì 14 gennaio i titoli, il Sole 24 Ore apre con Marchionne altri 3 anni nella nuova Fiat Chrysler, questo è il titolo di prima pagina, poi chiaramente la legge elettorale prende i titoli di quasi tutti i quotidiani, pochi paletti per la nuova legge elettorale, così apre il Corriere della Sera, per Repubblica voto la consulta detta le regole. La Stampa invece, legge elettorale antidemocratica, Il Messaggero, si può votare con questa legge, sono tutti titoli desunti dalle motivazioni della Corte Costituzionale che ha bocciato parte del Porcellum. Il Giornale, ora si può votare senza più alibi. Il Secolo XIX, voto la legge della consulta. Il Fatto Quotidiano, resuscita il proporzionale, la consulta apre la strada al voto. Chi apre in altro modo è Libero, agli italiani le tasse, agli immigrati i servizi. O l'Unità, Grillo è caduto nella rete, sul blog La Base sfiducia il leader e Casaleggio. Mentre Aki Server è sempre legata a questa vicenda del sondaggio del Movimento 5 Stelle, l'apertura del manifesto, votano in pochi al referendum online dei 5 Stelle che boccia la Bossi Fini. Aki Server, no? Giocando con il server di internet. Avvenire invece, la Chiesa con il mondo, il Papa, i diplomatici, fraternità, via per la pace. Questo è il titolo di prima pagina. Io però voglio partire dalla notizia, per carità, facciamo una precisazione. Molti mi hanno scritto: il premio La Carta Costa, dovresti scriverlo, dovresti oggi darlo a tutti gli articoli dedicati alla vicenda Hollande. Ma che scherziamo? Ma intanto parliamoci chiaro, gli italiani, molti italiani, non parlano d'altro, ma anche perché non è una vicenda legata solo alla pruderia, al tradimento, ma c'è una nazione appesa, una presidenza appesa, un'intera nazione non parla d'altro, la Francia, ma anche nel mondo non si parla d'altro, insomma non è solo una questione di banale tradimento. Oggi Hollande farà la prima conferenza stampa, che era già prevista, l'incontro con i giornalisti, ma questa vicenda del tradimento con l'attrice Gaillet, tradimento della compagna Valérie, chiaramente tiene appeso adesso l'Eliseo a capire che succederà. Reggerà questo scandalo? Tutti i giornali dedicano 2-3 pagine a questo tema. Valérie resta ancora in ospedale. C'è intanto il fronte di Valérie Trierweiler, che sarebbe pronta a perdonare François Hollande, vabbè, e qui c'è l'aspetto personale, ma poi c'è l'aspetto delle polemiche legate anche a chi c'è dietro questo scoop, perché tutti si chiedono: ma è mai possibile che un presidente francese sia stato pedinato così e fotografato mentre esce da un portone, il portone della casa del tradimento, tra l'altro casa legata anche alla malavita corsa forse? evidentemente quel fotografo, così per esempio cita il re dei paparazzi italiani Sestini, quel fotografo è stato imbeccato da qualcuno, cioè quel fotografo sapeva che il presidente era in quella casa, e se uno sa che il presidente francese è in una casa, significa che ha avuto un'imbeccata ad altissimi livelli, e tutti sono concentrati o a capire cosa ha fatto il predecessore Sarkozy, che infatti si toglie qualche sassolino in un paio di interviste, qualche dichiarazione, dice lui criticava me, oppure peggio ancora l'attuale ministro dell'interno francese Manuel Valls, che raccontano tutti i giornali aveva qualche problemuccio e qualche motivo di ripicca nei confronti del presidente Hollande. Comunque è interessante il commento di prima pagina del Foglio, Paola Peduzzi, tutta la Francia al 20 di Rue du Cercle, che è il luogo, l'indirizzo di questa garçonnière dove Hollande si è rifugiato con l'amante. Scrive Paola Peduzzi: non c'è più nulla di privato nell'ultimo amore del presidente di Francia François Hollande. Nel giro di qualche giorno la procedura degli incontri segreti con l'attrice Julie Gayet è sembrata una fatica inutile, quasi ridicola. I francesi non si sono sorpresi più di tanto. I sondaggisti solerti sono andati a studiare quanto lo scandalo ha fatto male al presidente, ma non hanno trovato granché. Hollande stava già tra il 15 e il 18% dei consensi, difficile andare più giù, anzi al limite la relazione clandestina servirà da giustificazione postuma ai tanti disastri combinati dall'indecisione del capo dell'Eliseo. Forse lo scandalo farà perfino bene a una presidenza tanto grigia. È uno di noi, insomma, qualcuno dirà, non vorrete giudicarlo per questo, ci sono già i dati economici a tramortire la sua presidenza. Un tocco d'amore non potrà che fargli bene. Come tradizione della storia politica francese, tutti sapevano, i rumors circolavano da un anno, a non crederci deve essere stata soltanto e tristemente Valérie la Terribile, la First Lady di Francia spietata, che aveva già rubato Hollande a un altro letto e finita in ospedale dopo aver sfogliato il magazzino Closer con le foto delle corna e delle corse d'amore nel traffico parigino del suo fidanzato. I rumors c'erano e nessuno diceva, e quando il pettegolezzo è diventato cronaca i francesi hanno applicato le regole del passato, amavano François Mitterrand e gli perdonarono la figlia segreta, pensavano invece che Dominique Strauss-Kahn fosse un porco e per la storia della cameriera newyorkese costretta a una fellazio s'accanirono con svogliato piacere. Ma, insomma, questa è la vicenda con i misteri legati a questo tradimento. Hollande alla resa dei conti, anche per Repubblica, il presidente parla dopo il Julie Gate, così già definito Julie Gate. Poi vabbè, c'è l'aspetto anche sicuramente da feuilleton, da romanzo rosa, e oggi il buongiorno di Massimo Gramellini è davvero spettacolare in questo senso. Sulla Stampa in prima pagina il titolo: ma come fa? Chiedo scusa per la futilità dell'argomento, scrive Gramellini, ma i traffici sentimentali del presidente Hollande, scritto così proprio, Hollande, con pronunciare con bocca storpiata in una smorfia parigina di fastidio, suscitano in noi maschi banali e insensibili alle grandi questioni geopolitiche una vibrante e insopprimibile curiosità. Come fa? Come fa, dico, un ometto dal viso di meringa occhialuta a saziare e straziare legioni di cuori femminili? E non si sta parlando di suffragette libro repellenti, incantabili da una collana di lapislazzuli o dal miraggio di una scodinzolata in TV. Le donne che quel signore senza carisma, ogni volta che apre bocca sembra il vicepresidente di se stesso, è riuscito a sedurre, vantano fascino e personalità da vendere, oltre che una dose ubriacante di puzza sotto il naso. Eppure la statista raffinata e la giornalista unghiuta hanno baccagliato come tigri al momento della sua incoronazione, una di loro in ospedale a curare lo smacco del tradimento, mentre la favorita del momento, un'attrice, naturalmente un'attrice impegnata, si è battuta per lui in campagna elettorale, e questo per limitarsi alla lista di dominio pubblico. Come fa? Le ipnotizza col suo irresistibile sguardo da sogliola alla mugnaia? O le conquista con uno di quei comizi che hanno fatto russare davanti alla TV milioni di francesi? Al confronto Sarkozy e Johnny Depp. A proposito, non è che anche Madame Bruni ha incontrato Hollande davanti a una tisana? No, impossibile. E comunque non lo voglio sapere. Così Massimo Gramellini oggi, il buongiorno della stampa. Vabbè, ma questa vicenda ovviamente avrà degli sviluppi, e che sviluppi. Tra l'altro, per unire presidenti a presidenti, Libero mette mezza pagina dicendo che anche al di là dell'oceano c'è qualcuno che non se la passa bene. Barack Obama. Secondo il National Enquirer, celebre giornale patinato americano specializzato negli scandali delle celebrità, udite udite, Michelle furiosa, camere separate per lei e Obama. Ma che succede? Il morbo del divorzio tra i presidenti. Secondo il National Enquirer, ripreso da Libero, a pagina 19, anche Michelle Obama, soprattutto dopo, ricordate il selfie, la foto che si è fatto Obama ai funerali di Mandela con la premier danese, una bella signora che ha fatto infuriare Michelle Obama, e pare che da quel momento si sia proprio arrabbiata, pare che dorma in camere separate, pare che sia pronta a chiedere il divorzio, ovviamente una volta che Barack Obama avrà finito il secondo mandato presidenziale. Questa è la situazione. Tante volte vedete a fare i presidenti degli stati, succede questo. Allora, venendo alle cose italiane, vi voglio segnalare i tanti articoli che ci sono e le interviste non solo all'onorevole senatore per la verità del PD Stefano Esposito, e veniamo alla vicenda delle minacce della TAV. Senatore Esposito del PD ha trovato una Molotov sotto casa con delle minacce esplicite, e in una serie di interviste dice: sono stato pedinato e minacciato, non vivo più, lascio la politica. Ma c'è anche un'altra vicenda che riguarda un collega, un giornalista della stampa, Massimo Numa, che per mesi è stato pedinato, è stato trovato un video con le sue anche passeggiate con il cane, le macchine dei familiari riprese. Da mesi lui vive una vita blindata. E oggi racconta a Giusy Fasano sul Corriere della Sera, pagina 20 e 21, che cosa significa. Sentite il racconto di Massimo Numa, cronista della stampa. 3 mesi fa è nata mia figlia, ho dovuto portare mia moglie in ospedale con la macchina blindata. Devo accompagnare i bambini più grandi al cinema, a scuola di sci, e ci devo andare con la scorta. Ho una casa che sembra Fort Knox, tanto è piena di sistemi di sicurezza. Allora in un giorno come questo mi chiedo: ma che vita è? E poi, se ci penso, io mi occupo di un treno, non di una centrale nucleare o della mafia. Nella sua giornata amarissima, questa è la testimonianza di Stefano Esposito. Guarda scorrere nei suoi pensieri l'una dopo l'altra le immagini. Mi rendo conto che se mollo per loro sarà una vittoria, ma io non sono San Francesco, non ho paura per me, ma non è giusto che trascini in questa situazione la mia famiglia. E così non si può vivere. E poi Massimo Numa, che raffronta e riflette sugli stessi argomenti, arriva alle stesse conclusioni. Non è una bella vita, dice il cronista della stampa. La vita sotto scorta ti costringe a pensare costantemente all'idea di essere in pericolo. Prima ero libero di prendere la macchina, andare dove volevo, compresa la Val di Susa. Adesso non posso più metterci piede per motivi di ordine pubblico. Ma io paura non ne ho e non ne voglio avere, non voglio arretrare nemmeno di un millimetro davanti alla loro intimidazione. Eccolo, sono il senatore del PD e il cronista della stampa Massimo Numa, accomunati da che cosa? Da avere il senatore del PD denunciato le violenze di alcuni in Val di Susa e le intimidazioni e gli assalti e gli attacchi e le minacce. Il secondo, Massimo Numa, di scrivere della Val di Susa, e lui pedinato con tanto di foto, le passeggiate con il cane, proprio seguito, e secondo gli inquirenti per motivi ovviamente non simpatici. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo dall'attualità politica. La Consulta ha bocciato parte della legge elettorale, questa è una deposizione della sentenza, e poi il rimpasto, insomma, questi sono i temi, questi, accontentatevi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora alle 7:34 minuti siamo a parlare della legge elettorale, è stata depositata la sentenza e sono state spiegate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale aveva bocciato parte della legge elettorale, l'attuale Porcellum, e molti giornali comprensibilmente aprono su questo tema, un tema che, ripeto, io lo dico sempre, a me non appassiona, credo nei tecnicalismi non appassioni la gran parte degli italiani, forse il 98-99%, ma insomma certamente è un tema che appassiona la politica. E poi una legge elettorale è un tema di discussione, proporzionale con una preferenza, questo è il titolo per esempio del Sole 24 Ore a pagina 8. Donatella Stasio racconta tutti gli effetti della Corte Costituzionale che ha bocciato il Porcellum ma non interviene a gamba tesa nel dibattito in corso sulla riforma. Con l'attesa sentenza depositata ieri viene bocciato il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza così come configurato nel Porcellum, perché non prevede una ragionevole soglia minima e quindi determina una alterazione del circuito mediatico. Bocciato anche il sistema delle liste bloccate lunghe, che compromette la libertà di voto del cittadino costretto, scegliendo una lista, a scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati senza conoscerli e senza poterli valutare, destinati automaticamente a diventare deputati e senatori. Insomma, tra l'altro la sentenza della Corte è autoapplicativa, nel senso che in mancanza di una nuova legge elettorale la normativa di risulta è tale da garantire il rinnovo in ogni momento dell'organo costituzionale elettivo. Un altro aspetto importante: l'attuale Parlamento è pienamente legittimo. Questo era un aspetto che era molto atteso nella motivazione della sentenza ed è un aspetto che toglie anche e fuga i dubbi sulla questione della legittimità dell'attuale Parlamento, perché eventualmente si applica da una successiva tornata elettorale. Ovviamente è partito il dibattito sul Corriere della Sera. Michele Ainis, costituzionalista, scrive un editoriale in prima pagina dal titolo "Schiaffo ai partiti, adesso tocca ai giocatori, dunque alla politica", scrive Ainis, "perché la Consulta ha messo nero su bianco le sue motivazioni senza risparmiare sull'inchiostro, 26 pagine. Dunque non c'è più il Porcellum, pace all'anima sua, non c'è però alcun vuoto normativo, giacché residua un sistema elettorale pronto all'uso, quale un proporzionale con voto di preferenza". Chiaramente poi scrive Ainis: ora tocca al Parlamento fare la correzione, il Parlamento non ha affatto perso la sua legittimazione come si disse a vanvera dopo la stroncatura del Porcellum, e anche su questo punto la sentenza usa parole chiare, c'è un principio di continuità negli organi costituzionali, sicché restano validi gli atti già compiuti, saranno validi quelli successivi, a cominciare per l'appunto dalla nuova legge elettorale, sempre che il Parlamento sappia scriverlo. E beh, anche questo è un po' la stoccata ai partiti che Michele Ainis già in passato non ha risparmiato e che ora rinforza dopo questa bocciatura della Corte Costituzionale. Vabbè, quindi si parla di legge elettorale, si parla anche del rimpasto. Ieri Matteo Renzi, un po' a sorpresa, è salito al Quirinale a parlare con Napolitano e ha bocciato via Twitter, che è il modo che più utilizza come strumento di comunicazione Renzi, che noia il rimpasto, roba da prima Repubblica. Questo è il succo di quello che ha detto a Giorgio Napolitano in questo colloquio. Goffredo De Marchis su Repubblica, a pagina, in prima pagina e poi pagina 3, il patto tra Napolitano e Renzi, la riforma si può fare subito, racconta Goffredo De Marchis, l'ha detto a Giorgio Napolitano. Non è mica cambiando due ministri e dandoli a me che questo governo comincia a funzionare. Insomma, la paura di Matteo Renzi, scrive Repubblica, è sempre la stessa. Loro pensano di fare il giochino del rimpasto o peggio ancora del Letta bis per tirarmi dentro, per ingabbiarmi. Ecco, io a questo giochino non ci sto. Il governo faccia le cose, tutto il resto è noia. Così Matteo Renzi. Il colloquio al Quirinale ha confermato che la volontà del segretario comunque non cambia, si può andare avanti fino al 2015 con Enrico Letta, tanto che Federico Geremicca, anche lui nel suo retroscena sulla Stampa, racconta che c'è stato un momento di paura proprio quando Matteo Renzi a Giorgio Napolitano ha fatto sapere che non gli piace questo gioco da prima Repubblica del rimpasto, però però ha detto rimane fedele, quasi uno sfogo, scrive Geremica sulla stampa. La prego davvero, presidente, ci sono due cose che vorrei lei non mi chiedesse. Questo avrebbe detto Renzi a Napolitano. La prima è quella di cambiare il mio linguaggio. Lo so che a volte può sembrare perfino brusco, ma io sono fatto così. La seconda è questa faccenda del rimpasto. Lei lo sa, non voglio metterci bocca, detesto queste liturgie, non vorrei entrarci per niente. Ecco, a questo punto è arrivata una pausa che forse per un istante ha fatto tremere il peggio a Napolitano, ma poi Renzi ha ripreso il filo del ragionamento e ha detto: comunque, presidente, sia chiaro, mi rimetterò a quello che deciderete lei ed Enrico Letta. Dunque, il titolo del retroscena di Geremica, che inizia con queste parole: Renzi sale al Quirinale e spinge sulla legge elettorale. Non voglio metter bocca sul rimpasto, ma comunque rimane fedele. Anche su il Corriere: roba da Prima Repubblica, non chiedo rimpasti, così Renzi al Colle. In tutto questo parla del rimpasto anche Angelino Alfano, ministro dell'Interno, intervistato da Claudia Fusani sull'Unità. Prima il patto, Viminale non è in questione. Alfano prima fa un gioco di parole un po' arzigogolato e dice: la navigazione può essere tranquilla per i prossimi 12 mesi per il governo, in quanto è appunto una navigazione, e cioè faremo. Vabbè, insomma, a parte gioco di parole, ripeto, un po' forzato. Alfano dice: abbiamo le idee molto chiare, dobbiamo fare un patto di governo per 12 mesi, cose da realizzare, e dopo i 12 mesi torneremo a dividerci. Dice ancora, intervistato sempre da Claudia Fusani sull'Unità, pagina 3: l'ho già detto e ripetuto, io mi fido di Renzi. Riguardo al rimpasto, dice: non voglio assolutamente cedere il Viminale, stiamo facendo un ottimo lavoro, i risultati sulla sicurezza, la lotta all'infiltrazione criminale anche al nord ne sono la prova. E poi parla del caso De Girolamo, il caso del ministro del nuovo centrodestra, dunque il suo partito. Dice: le registrazioni sono state rubate in una casa privata e questo è inaccettabile, di questo passo nessuno si fiderà più di parlare con nessuno. Nunzia De Girolamo saprà chiarire in Parlamento e sono convinto che abbia agito con correttezza. E però il caso De Girolamo, che affronteremo alle 8:15, è un tema che in realtà sta creando molti problemi. Caso De Girolamo, PD all'attacco, interrogazione urgente in aula, sarà presentata tra l'altro da Gentiloni e l'onorevole Gozzi, che sarà nostro ospite del Partito Democratico. Qui c'è anche l'intreccio, lo sapete, ne abbiamo già parlato, perché Nunzia De Girolamo è sposata con l'onorevole del PD Francesco Boccia, e dunque c'è questo anche intreccio, come dire, bipartisan. Anche per Repubblica, De Girolamo e l'ASL di Benevento, indagini sul direttorio dei fedelissimi. Si parla in questo articolo di Concita Sannino a pagina 6 di un direttorio presunto tale che avrebbe anche pilotato appalti, che avrebbe fatto affari. C'è anche l'intervista alla dottoressa Maria Calandra, che quando viene raggiunta da Repubblica dice: ho capito, mi avete trovato, ma sai, io non vorrei parlare di tutta questa storia. Comunque è un chirurgo di 54 anni, per 13 anni responsabile del servizio di emergenza sanitaria territoriale Sannita, che è stata allontanata, strappate tutte le mansioni dal giorno alla notte, e lei conferma: effettivamente mi hanno allontanata senza un motivo mentre ero in Africa a curare i bambini. Non ho saputo niente, non ho mai saputo di questo presunto direttorio che avrebbe pilotato nomine e appalti. E vabbè, insomma, il caso comunque rimane, e rimane ben discusso sui giornali. Potrebbe tramutarsi anche in un caso politico, con le possibili dimissioni di Nunzia De Girolamo, che però dice: chiarirò tutto in Parlamento. Staremo a vedere. Intanto voglio salutare Mauro Meazza, che ieri era tutto tronfio in attesa della partita dell'Inter. Oggi ha un po' le orecchie a mezz'asta. Vabbè. Insomma, sì, una partita, direi, tinta con la maglia degli avversari, sì, in grigio, diciamo così. Sì, è giusto, è vero. In grigio anche per l'arbitro, mi permetterei di dire, vabbè, può capitare. Piagnina Meazza, va bene, dai. No, cosa... assolutamente, cosa... però diciamo sarebbe bello, insomma, sai, noi siamo anche un po' fissati con le regole, oggi spieghiamo le regole dell'IMU, ecco. E della Minimu, attenzione, sai, ti sei preparato sulla Minimu, non farti distrarre dagli arrivi dall'estero. Guarda, se prima o poi giuro che studierò prof tutta la notte precedente al 24. Allora, guarda, seriamente, un momento di serietà, lasciamo da parte il calcio. Il 24 gennaio bisogna pagare in 2.400 comuni questa Minimu. Facciamo un po' di spiegazioni, oggi naturalmente ancora sul Sole 24 Ore, domani una guida intera. Intanto sul sito www.ilsole24ore.com c'è un forum dove si possono mandare le domande e un calcolatore, così si possono anche fare i conti. Quindi, insomma, un binomio tra carta e digitale, come si usa dire di questi tempi. E poi ho un messaggio abbastanza importante, non è solo per gli amici fiscalisti, non è il solito radiofisco. Attenzione, perché cambia il modello di registrazione degli affitti. Sì. Arriva il modello RL1, Roma-Livorno-Imola. È importante perché sostituisce quattro modelli, ne parliamo nella sezione di norme e tributi. E poi sono cambiate le cose nel panorama delle radio, ma non per quella per cui stiamo parlando noi, sì, tu e io, caro Alessandro. Ne riferiamo in finanza, ne parla Carlo Festa, leggi, sono delle anticipazioni su movimenti nel settore radiofonico italiano. Ah, va bene, che ci sono? Sto qua io, sì. Non si parla di te, però non lo so, hai avuto un incarico, sei stato chiamato da Tedorf? No, assolutamente. Sei stato chiamato forse da Berlusconi per il nuovo vertice? Neanche. No, è vero che ci sono giornalisti in rampa di lancio, effettivamente. Quindi sono dei giornalisti molto ben posizionati, però io non ho visto il tuo nome, ma posso non essere stato distratto. No, cerca pure con attenzione, ma non lo troverai. Va bene, dai Mauro, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ripartiamo dalle altre notizie sui giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, c'è il Movimento 5 Stelle che ieri ha lanciato un sondaggio in rete. Il sondaggio in rete perché, ricordate la vicenda dopo lo sbarco tragico di Lampedusa, i tanti morti, due senatori proposero un emendamento per cancellare il reato di clandestinità. Furono subito ripresi in qualche modo da Beppe Grillo e Casaleggio, dicendo non è un tema che è all'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Poi che cosa è successo? A questo punto ieri il Movimento 5 Stelle ha lanciato un sondaggio online tra i suoi iscritti a dire: ma allora che ne pensate di questo reato di clandestinità? E tutti i giornali raccontano che Grillo e Casaleggio sono stati sconfessati dalla rete, nel senso la posizione vincente è quella dei senatori, in questo caso il senatore Cioffi e Buccarella. Reato di clandestinità, Grillo e Casaleggio finiscono nella rete, questo è il titolo per esempio del Fatto Quotidiano a pagina 6, due leader si erano espressi contro l'abolizione ma il sondaggio online sconfessa la linea di destra e dunque c'è l'applauso dei senatori ai 16.000 sì. Abbiamo vinto, tanto che racconta La Stampa con Jacopo Iacoboni. Casaleggio è preoccupato, non è che ieri Casaleggio fosse contentissimo del risultato del referendum, diciamo che lo descrivono come preoccupato. Chi scriverà che è arrabbiato dice una cosa difficile da verificare, non tanto credibile in quei tipi di carattere, però resta della sua idea, questo sì, che è forse molto più radicata di quella di Grillo. Cioè un Casaleggio che racconta La Stampa a questo punto è un po' preoccupato perché dice perdiamo i voti moderati, anche se i centri di identificazione e espulsione non gli piacciono, ci vorrebbe una riforma complessiva, però sa che mediaticamente il risultato li aiuta. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle che si interroga su quello che è successo, mentre Berlusconi è sempre lì ogni giorno, c'è il borsino Toti, dobbiamo fare, il direttore di Studio Aperto è TG4 che ogni giorno viene dato per nominato o non nominato, nominato coordinatore di Forza Italia o non nominato. La nuova formula sarebbe una nomina a coordinatore di Forza Italia con 10 big in segreteria, cioè lui ma anche altri 10. C'è un'intervista, vi faccio notare, di Raffaele Fitto, intervistato dal Corriere della Sera da Paola Di Caro, trovate l'intervista a pagina 11, dice Fitto: il Cavaliere non ci deve umiliare con quella nomina, una persona che stimo Toti, ma non deve mortificare un intero gruppo dirigente, issando alla testa del movimento un giornalista certamente per bene, certamente capace, ma che credo debba quantomeno dimostrare quale contributo possa dare a Forza Italia. Insomma, la nomina di Toti davvero non piace. Vicende di cronaca, ma legate alla politica. Numero uno, L'Aquila. Le nuove inchieste sull'Aquila. Sapete che c'è anche un ex assessore e che anche un architetto, Ermanno Lisi, assessore alle opere pubbliche nell'anno di ricostruzione 2010, che in un'intercettazione viene pizzicato a dire: che culo, una botta di culo il sisma. Ricorda quell'intercettazione, no, di quello che rideva per il terremoto, tanto che il Fatto Quotidiano con Chiara Paolin va a intervistarlo. Assessore o ex assessore, ma lui dice, ora ecco, si difende: avete capito male, io non ho fatto niente, non ho rubato un soldo. Ma quelle frasi lì, abbiamo pubblicato le sue parole: io stengo all'amministrazione, mica cazzo stengo fuori, mica sono stupido, Semo ha avuto il culo che in questo frangente, con tutte ste opere che ci stanno, farsele scappare da fessi. Insomma, sembra abbastanza chiaro. Ma no, sono frasi fuori contesto. Parlavamo tra noi, con l'interlocutore si parlava degli affari dello studio nostro. Non c'entra il comune, mica mi occupavo della ricostruzione. Ho fatto solo lavoretti di privati, villette di parenti, amici, roba che non c'entrava niente col terremoto. Io non ho preso un euro mai da nessuno. E quando viene paragonato a quello che rideva, cioè lei non è come De Vito Piscicelli, il costruttore che si fregava la notte del terremoto. Io non c'ho niente da spartì con quello, anzi io lo scrocchio a Piscicelli. E poi dice: sono una vittima. Vabbè, sempre così, quando ci sono poi le intercettazioni sono una vittima. Poi, notizia che mi ha colpito legata alla politica è questa. Racconta Libero, c'è un sito Facebook, pagina 5, dove ci sono raccolte delle iniziative per fare una class action contro l'ex governo Monti con l'accusa, udite udite, di istigazione al suicidio. Insomma, mi sembra un po'... Chiara Pellegrini su Libero: una class action, esposto querela di massa contro il governo precedente, contro Mario Monti e i professori, ma anche contro Enrico Letta, l'attuale esecutivo. Dunque anche questo: istigazione al suicidio, prime denunce presentate alle stazioni dei carabinieri e agli uffici di polizia a merito di un movimento che è nato su Facebook, ha denunciato il numero crescente di persone che si sono tolte la vita negli ultimi due anni per cause legate al deterioramento delle condizioni economiche, e dunque c'è questa pagina: denunciamo il governo per istigazione al suicidio, vogliono fare una class action. Vabbè, trovate anche molto di pagine dei Marò. La vicenda dei Marò sono stati così, non dico abbandonati, ma almeno abbandonati dall'opinione pubblica. La vicenda è raccontata sempre meno. Salvatore Girone e Massimiliano Latorre si trovano in India ormai da non so quanto, dal 15 febbraio del 2012. Ecco, sono tornati anche in Italia, ma insomma sono ormai quasi due anni e ancora non si sa granché. Il vice ministro agli esteri Staffan de Mistura dice: abbiamo intrapreso ieri un'azione molto forte su mandato di Enrico Letta, una mossa di una strategia di più lunga portata che avrà diversi sviluppi a seconda della risposta nei prossimi giorni e settimane. Insomma, la petizione dell'Italia alla Corte Suprema indiana, formulate le accuse, è un'iniziativa per sbloccare il caso Marò. C'è anche l'iniziativa di La Russa, di Fratelli d'Italia, che annuncia: vogliamo candidarli alle europee. Ecco, questa poi, ma candidare i Marò alle europee. Vabbè, siamo al momento finale, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo a un'intera pagina di Repubblica, una intera sul caso. Speriamo che mia figlia non mi stia sentendo. Violetta, anche Peter Mescapi ha fatto no. Violetta, una pagina su Violetta. Gadget e amori impossibili, quelle bimbe troppo adulte della generazione Violetta, cari genitori che avete le bimbe di 7, 8, 10, 11 anni, 12, 13 anni, prima poi dopo 13 anni magari sono un po' grandicelli, sapete di quello di cui sto parlando. Violetta, una pagina intera su Repubblica, me la devono far vedere anche qui. La carta costa e anche la rabbia aumenta, amici di Repubblica. Violetta, vi prego, risparmiatevi almeno alle 7:50 del mattino, che poi già a casa c'ho la mia dose quotidiana. Fermiamoci qui, giornale radio.